Vediamo innanzitutto chi vuol porre domande, poi semmai mettiamo un po' in ordine gli interventi. Non c'è, per esempio, per quello che riguarda la relazione di Leanza, nessuna domanda? Sì, prego. Allora, magari Leanza, dunque, come facciamo? Lei vuole venire lei prima qua o magari al mio posto, così pone le domande? Ecco, facciamo così. Beh, intanto allora vediamo un momento, venga qua e così poi dopo diamo. Sono Don Cecchetto, insegno patrologia, mi presento al seminario di Treviso. Io ho seguito con attenzione questo rapporto di Gerolamo con questi maestri ebrei, non ho capito bene un passaggio e riguarda quando in una lettera ad Amaso dice di aver ricevuto dei rotoli, se parla della sua situazione a Betlemme o di quando era a Roma. E mi interessava in particolare sapere se c'era stata una qualche relazione tra Gerolamo e gli ambienti giudaici o ebraici di Roma, e in particolare, siccome c'è una certa fides isatis ex ebreo, cioè una proclamazione, una confessione di fede fatta fare a un certo Isaac che veniva dal giudaismo, proprio dell'ambiente di Roma, seguace di Liberio, se per caso c'era una conoscenza tra Gerolamo e questi ambienti giudaici, ebrei, Romani. romani, sì. Approfitto dell'occasione, posso fare anche un'altra domanda? Sì. Volevo farla. Riguardo alla seconda domanda, non saprei dirle. Mentre la lettera ad Amos è scritta da Betlemme, e quindi i rotoli che Girolamo aveva chiesto, erano della sinagoga vicina, e piuttosto coglierei l'occasione per dire, io anche per brevità ho tralasciato questo aspetto. Girolamo spesso allude al lavoro di copiatura che egli avrebbe fatto di manoscritti ebrei o di consultazione, per esempio cita senz'altro la Parva Genesis, una notizia che non è contenuta nel testo attuale pervenutoci, cita e conosce il Vangelo dei Nazorei. In questo caso parla di codici non meglio specificati che aveva chiesto dalla vicina sinagoga e gliel'avevano portati. E comunque è una lettera scritta da Betlemme, quindi non riguarda l'ambiente romano. Riguardo all'altro punto, invece, non saprei dirle le conoscenze che Girolamo aveva con il giudaismo romano. È un aspetto che non ho trattato. Credo comunque che le sue conoscenze, la sua dimestichezza, i suoi rapporti con gli ebrei siano tutti palestinesi o del periodo della Calcide e non del periodo romano, credo. Comunque, c'è qualche accenno anche di una conoscenza che aveva dei giudei di Roma. Sì, ma non se ne servì mai come di maestri, però non mi risulta. Voleva porre la seconda domanda? Ma Ecco. riguarda. Ah, vabbè, anche se. Ma puoi restare lì, tanto semmai mi alzo io che sono inutile. Sì, appunto. Prego. Riguarda il professor Perrone, io volevo chiedere se riguardo a questi commenti a testi di Paolo, c'era un'utilità a prendere in considerazione anche confronti con commenti paolini di questo periodo, e cioè dell'ultima parte del IV secolo, e mi riferisco in particolare all'Ambrogiaster. Che eventuali rapporti possono nascere o quali elementi possono nascere da questo confronto? Ma sulla base almeno delle verifiche che ho fatto io per questi passi, quindi il mio discorso vale in maniera più diretta, la risposta si riferisce solo a questo punto, ecco, per i passi in esame discussi da Gerolamo nell'epistolario, non ci sono riferimenti al commentario, ai commentari paolini dell'Ambrosiastre. Del resto, ecco, credo che l'atteggiamento di Gerolamo a questo riguardo sulla produzione di commentari in ambito latino fosse sufficientemente chiaro, ecco, dalle dichiarazioni premesse nel prologo, ecco, al commento ai Galati, ecco, per cui non riteneva di essere effettivamente il primo a dare avvio a una tradizione di commenti paolini nel mondo latino, sia pure ricavando il materiale interpretativo, esegetico, ecco, nei confronti della tradizione greca. Ecco, quindi né Mario Vittorino né l'Ambrosiaster erano termini di riferimento accettabili per lui. Ecco, naturalmente poi ci sono anche altri fermenti nel mondo latino, io questo non so, perché c'è Agostino tra fine IV e inizi V secolo che avanza anche lui sul terreno dei commentari paolini, però non mi pare, ecco, che tutto questo fermento in atto anche nel mondo latino avesse avuto un riflesso diretto in questi testi geronimiani. Certamente sono testi molto, molto delicati da esaminare, ecco, ne sono ben consapevole. Credo che basti questo esempio minimo in fondo, ecco, dell'Epistola 69 per far vedere la complessità che è stata ricordata anche nelle relazioni precedenti, anche in modo particolare direi nella relazione di Clausi, era evidentissimo, cioè tutto l'uso della scrittura in Gerolamo richiede una consapevolezza metodologica molto, molto sviluppata, molto raffinata, e quindi è veramente molto rischioso, ecco, tentare, come ho tentato anch'io, insomma, con sondaggio, ecco, un sondaggio limitato di cui sono molto consapevole. Ecco. Qualche altra domanda? Nazzaro. No, io volevo chiedere a Clausi una dilucidazione in merito a due affermazioni che ho sentito in ordine a una mancanza di sistematicità, però può darsi che non abbia capito bene, dato che devo poi tirare le conclusioni, allora non vorrei concludere dicendo cose che non ho capito bene, insomma. Allora, in ordine a una mancanza di sistematicità da parte di Gerolamo nella citazione della scrittura, mi pare anche di aver sentito, perché dice una volta attinge dall'ebraico, un'altra volta dal greco, qualche volta traduce dal greco, qualche altra volta utilizza testi latini, eccetera, eccetera. E beh, la cosa mi colpisce perché è una asistematicità necessitata. Cioè, quando Gerolamo cita un testo che non ha ancora tradotto, beh, lo traduce da dove gli pare, anche in relazione al tipo di esegesi che si appresta, diciamo, a portare avanti. Qualche volta capita che cita un testo che già ha tradotto, perché voglio dire, la traduzione della Bibbia dura, del Vecchio Testamento dura più di 20 anni. Ora, anche quando gli tocca di citare un testo che già ha tradotto, pur in questo caso a noi capita, diciamo, noi studiosi capita di rilevare che cita un testo diverso da quello che egli stesso ha tradotto. Allora, insomma, credo di aver capito bene. Allora la domanda è questa: qual è il problema di questa mancanza di sistematicità? Anche perché nella parte finale della relazione ho sentito assenza formale di sistematicità, proprio questa espressione hai usato. Allora, se mi vuoi un po' sì, chiarire, per me è un fatto scontato, allora, che sia sistematico. La ricorrenza del termine sistematicità nei due contesti che tu hai citato trae ovviamente in inganno, perché sono due contesti diversi. Nel primo caso mi riferivo alle traduzioni, e l'assenza di sistematicità non l'ho rilevata certo io, sono gli studi di Vaccari che ci hanno insegnato tanto, colpisce trattandosi di Gerolamo, colpirebbe meno trattandosi di altri autori, colpisce molto trattandosi di Gerolamo. Ma qual è il problema per cui ho rilevato questo? È il problema della tradizione manoscritta, delle edizioni successive, delle edizioni soprattutto di età controriformistico, delle prime edizioni umanistiche, perché al contrario di questa costante di Gerolamo, cioè di non avere una costante nella citazione, ci sono dei tentativi di uniformizzazione di questo, che pongono problemi seri quando vai a valutare poi la presenza del testo scritturale. Vabbè, ma questo è un fatto successivo. Ieri Duval, per esempio, che appunto una allieva loro, ha visto come una citazione di un testo nell'Altercatio poteva essere ben ricondotta al testo di Cipriano, cosa che non si vede. E sai, questo se ne ricavano delle conclusioni importanti. Cioè tu, quando fai uno studio appunto della forma della traduzione in relazione ai contenuti delle cose, devi tener conto di questo. Infatti ho detto all'inizio della relazione, questo è il settore su cui oggi possiamo dire di meno. Possiamo solo rilevare questa operazione, tra virgolette, normalizzatrice degli editori, e quindi avere cautela di fronte alla citazione testuale che noi troviamo nel testo di Gerolamo. Non è che la vorresti indicare come un problema grosso, però in relazione all'edizione testuale questo c'è, e poi alla valutazione che noi diamo di queste presenze. Nel secondo caso, se ho ben capito il tuo riferimento, era invece il contesto dell'esegesi. Allora, quando si va a guardare all'esegesi nell'ambito del testo polemico, non ci si aspetti di trovare quelle caratteristiche di sistematicità, eccetera, che tu puoi trovare in un commentario esegetico, se ricordo bene il contesto in cui io ho fatto questo riferimento. È chiaro che una valutazione della presenza della Bibbia, in scritti polemici, ma comunque in generale, delle citazioni, cioè deve tener conto di tutto il lavoro di traduzione, e quindi quando ci sono scarti rispetto alle varie traduzioni vanno valutate. Io non dico che sono di per sé, lo scarto è un fatto abnorme, che però va valutato, che dietro può avere il nulla, il caso, la memoria, può essere della più banale occorrenza, però può avere invece delle ragioni, e questo mi pare Lorenzo magistralmente. No, allora posso riformulare, sì, la domanda, ma secondo te c'è anche qualcuno che non valuta questi scarti? Sì, sì. Ci sono, sì, credo, studiosi che non... Credo che nell'insieme delle cose spesso non siano stati valutati. Vabbè, grazie. Vorrei prendere lo spunto io dall'intervento di Nazzaro e per rilevare che il problema delle traduzioni che Gerolamo fa in diversi tempi dei testi biblici e il fatto addirittura che egli stesso non usa la sua Vulgata, e questo è un problema che forse è stato poco trattato. Allora, la Vulgata va dal 390 al 406, 16 anni, tu gliene hai dato 4 in più ad abbondanza, vabbè, insomma, certo, siamo abbracciato un largo arco cronologico, però se noi prendiamo i commenti ai profeti che sono tutti posteriori al 407, il commento a Isaia, e rimaniamo sorpresi nel vedere che egli ritraduce il testo e non utilizza la sua Vulgata, e questa è una cosa anche dal punto di vista psicologico, perché lo fa? Egli stesso non dava credito alla sua traduzione, forse per effetto delle tante obiezioni, delle tante amarezze che aveva avuto, non lo so, è un problema secondo me da studiare. Egli è il primo che non usa la sua stessa traduzione. Non è stato approfondito questo problema delle varie traduzioni che in tempi diversi date lo stesso versetto. Per esempio, ricordo così adesso a memoria che di un versetto dell'Ecclesiaste, le mosche morte rovinano l'olio del profumiere, i commentari moderni, da quello del Podesciare, da quello del Difonso, hanno portato una documentazione di ben 10 traduzioni diverse dello stesso versetto, compreso quello della Vulgata. Quindi non so a cosa sia dovuta questa varietà di tradurre lo stesso testo sempre in maniera diversa. Certamente alcune volte a contesti polemici, ma non basta, non basta. Soprattutto il fatto che non utilizzasse senza apparente motivo la sua stessa versione, la Vulgata. Questa è una cosa che secondo me è da approfondire. Ma la sapeva a memoria. Sicuramente la sua Vulgata non l'aveva portata di mano, ma la conosceva, credo. È una spiegazione forse troppo semplice. Può anche darsi. Io mi riferisco di nuovo alla relazione di Clausi, che è stata molto stimolante sotto il profilo metodologico, e vorrei appunto che chiarisse un punto che anche lui ha lasciato eventuali approfondimenti futuri. A un certo punto si parla della possibile rilevanza non soltanto per quanto riguarda la valutazione interna dell'opera, ma anche per la stessa storia dell'esegesi, delle citazioni bibliche in queste opere polemiche. E hai detto che da un lato il genere polemico impone delle regole retoriche molto stringenti, dall'altro proprio questo contesto polemico può favorire una certa spregiudicatezza, libertà nell'esegesi, citando il caso dei fratelli di Gesù, per esempio, e qualcun altro. Ecco, io trovo un po' di tensione all'interno di questo suggerimento, no? Il genere che vincola e il genere che dà libertà. Se si potesse un po' approfondire a questo punto sarei grato. Sì, sì, ma sono proprio i vincoli del genere a costituire la libertà. Cioè? Cioè, è proprio in questo senso il fatto che, quando parlo di vincoli del genere, ovviamente con riferimento agli altri generi e agli altri vincoli. In questo caso, il genere dà la libertà di uscire al di fuori di quella che era una tradizione, ecco, concetto di tradizione, per esempio, il peso che tu dai al concetto di tradizione quando valuti queste cose. Ora, nella polemica, questo vincolo di altri generi viene meno, quindi c'è una maggiore libertà in questo senso. E poi io ponevo un secondo elemento che a me pare importante, il confronto. Il confronto spinge comunque, diventa occasione di stimolo, dicevano, spinge comunque l'esegeta a trovare delle soluzioni che sono soluzioni che partono con l'essere contingente e occasionale. Cioè, tu mi poni un problema a cui io devo trovare una soluzione, che alla fine però possono essere, non dico che tutte le trovate esegetiche di Gerolamo polemista siano state poi alla fine delle trovate ingegnose e meritevoli di essere riprese, alcune però sì, appunto quella dei fratelli di Gesù, dicevo, è ripresa da Beda, viene ripresa dallo stesso Ambrogio che cambia, cioè una soluzione felice, tra virgolette. Da cosa scaturisce la soluzione felice? Appunto da questa sorta di libertà rispetto alla tradizione, rispetto a una serie di vincoli, eccetera, che poneva. Cioè, questo. Sì, mi pare sì. Mi pare sì, comunque non è stato studiato da mia moglie in questo senso, quindi poi puoi leggere un tuo articolo che ha studiato apposta questo elemento e quindi lo vedrai, diciamo così. Bene, proseguiamo con le domande. Mi chiamo Piero Capelli, sono di Bologna. Un'osservazione, solo immagine alla bella relazione del professor Leanza. Se ho capito bene, fra gli argomenti forti che usa Brown per dimostrare che la competenza di Gerolamo in lettere ebraiche era seria e solida e non superficiale, c'è quello della consapevolezza e dell'uso che Gerolamo fa dell'ambiguità interpretativa di cui possono essere oggetto termini ebraici oppure anche radici ebraiche variamente localizzate. Dunque io non so quanto, non sono molto persuaso della forza di questo argomento, perché in realtà ancora oggi nella tradizione didattica, cioè come faccio io quando mi capita di insegnare l'ebraico biblico ai principianti, come hanno fatto i miei maestri con me, si usano ambiguità come per esempio quella della radice dalet bet resh, che vocalizzata da bar vuol dire parola, vocalizzata da ever vuol dire pestilenza, vocalizzata da ber vuol dire parlare, come usa Gerolamo, per suscitare consapevolezza di un fatto che ha la sua rilevanza esegetica e che comunque incuriosisce, per esempio, un principiante, e soprattutto è un fatto per capire il quale, tutto sommato, basta avere una consapevolezza, una conoscenza dell'alfabeto ebraico e avere a disposizione un vocabolario, cosa che oggi è facile. E allora no. Certo. Gerolamo noi disponiamo di vocabolari scritti, ma Gerolamo disponeva di vocabolari orali. I suoi maestri, no? Sì. Quindi è una cosa che in realtà secondo me non richiede un'alfabetizzazione, non richiede più che una semplice alfabetizzazione letterale. E penso che Gerolamo potesse tutto sommato utilizzarla per suscitare curiosità in un pubblico che questa consapevolezza magari non aveva, ma che era in grado di capire i ragionamenti che Gerolamo appunto faceva. Un'altra cosa... un'altra cosa che sto cercando negli appunti, lei ha detto praticamente quasi all'inizio che dovrebbe essere decisivo per decidere in merito alla questione della competenza di Gerolamo l'atteggiamento che i contemporanei di Gerolamo stesso hanno riguardo alla sua competenza. Qui faccio una domanda da assoluto incompetente in materia patristica. Lei ha citato diversi padri contemporanei di Gerolamo che attestano la sua competenza sicura. Mi chiedo quanto questo non possa essere un fatto di tradizione interna ai padri stessi, cioè se Gerolamo era più bravo perché aveva preso la borsa di studio da Paola, era andato a studiare in Palestina, conosceva l'ebraico, e quindi può essere un consensus omnium tra i padri, un consensus acritico, derivante semplicemente dalla circostanza materiale che Gerolamo era l'unico che si era preso la briga di andarsi a studiare le fonti là dove erano state prodotte. Se fosse così, allora resterebbe comunque l'argomento fortissimo, questo sì, del silenzio di Rufino, che non si avvale, come sicuramente avrebbe fatto, di una presunta incompetenza di Gerolamo nella sua polemica contro di lui. Sì, e qui il collega Moreschini mi sottolineava l'apprezzamento di Sulpicio Severo, che forse è più significativo di altri, perché tutti sanno i rapporti tra Sulpicio e Gerolamo. E io non a caso ho citato solo scrittori del IV secolo, e proprio perché poi il fatto avrebbe potuto divenire un topos, ma questi erano scrittori a cui, diciamo, risultava personalmente la competenza di Gerolamo, e Gerolamo stesso si faceva forte di questa competenza e sapeva che nessuno la poteva mettere in dubbio. E quindi questo argomento, diciamo, mi sembra abbastanza sicuro. E più spazio darei io all'altra sua obiezione, quella del gioco semantico cui spesso Gerolamo... Mi pare che con grande facilità, e molte volte, io naturalmente ho portato una documentazione anche per ragioni di tempo, diciamo, limitata, però ci sono gli studi dello Stummer. Lo Stummer ha fatto, diciamo, una ricerca sulle fonti greche per vedere se tutte le volte che Gerolamo riporta interpretazioni ebraiche o fa disquisizioni sul testo ebraico, per caso non le prende dalle fonti greche. Ora, i casi in cui si trova il riscontro nelle fonti greche è molto limitato. Diciamo che la stragrande maggioranza dei luoghi in cui Gerolamo disquisisce di ebraico sicuramente non ha fonti greche. Ora, la facilità con cui lo fa evidentemente denota una conoscenza, cioè leggendo un testo per lui veniva spontaneo, non è che tutte le volte che incontrava un termine ebraico andava a prendere il vocabolario e vedeva se ci fossero sinonimi o se cambiando la vocalizzazione cambiava il significato. Sarebbe stata una fatica pazzesca, come cercare l'ago nel pagliaio. Evidentemente lo faceva con grande facilità perché spontaneamente alla sua attenzione risaltavano le polisemie, i giochi di parola. È proprio questo che denota una perfetta padronanza della lingua. Se avesse dovuto, vocabolo per vocabolo, su tutta la scrittura, vedere quali termini si prestavano a questi giochi verbali, ci sarebbe voluto più tempo per fare questa ricerca che non per tradurre l'intera Vulgata. Bene. Qualche altra domanda? Allora forse possiamo concludere qui i lavori per